Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E finalmente ben ritrovati qui a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che con l'ottobre riprende, vuol chiudere la quarta stagione, la quarta stagione di programmazione sul Pioniere qui a Radio Città Fujiko. Il Pioniere, naturalmente chi ci ha seguito nelle puntate scorse sa di cosa stiamo parlando, invece per chi cominciasse a seguirci oggi ed è benvenuto in questa piccola comunità di ascoltatori, l'introduzione generale la affidiamo allo storico Marco Vincardi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci riassume un po' da dove proviene, cosa si propone e che cos'è il Pioniere. Ascoltiamo. Marco Vincardi, storico, docente all'Università Veneziana della Ca' Foscari, parliamo del Pioniere e dell'esperienza che Gianni Rodari e Dino Rinaldi hanno condotto in questo giornalino che è nato nel dopoguerra nell'alveo della cultura del Partito Comunista Italiano, un'avventura editoriale che evidentemente aveva ereditato un ben pesante fardello dopo 20 anni di educazione fascista. Il regime fascista ci aveva lavorato tantissimo, investito delle risorse enormi proprio sul dare una impronta ai giovani, case del Balilla, palestre, piscine, erano stati fatti grossi investimenti, cose poi che nel dopoguerra, durante la guerra, trasformate magari in caserme per necessità di guerra o deperite, poi deperite ancora di più nel dopoguerra, per cui magari oggi non ce ne rendiamo conto, ma c'era stato un investimento enorme, ma sempre in una prospettiva che era quella di plasmare i ragazzi per farne, per quanto riguardava i maschi, dei futuri soldati, quanto riguarda le ragazze, le madri di soldati, e quindi c'era questo intruppamento che prevedeva sostanzialmente un'adesione passiva dei ragazzi. L'organizzazione dei Balilla, poi la Gioventù del Littorio, erano forme associative molto pervasive che si basavano inizialmente sulla scuola. A livello popolare erano soprattutto i Balilla, perché i maestri delle scuole elementari poi portavano i ragazzi ad aderire all'associazione Balilla, magari anche se erano poveri, il regime gli forniva la camicia nera, e erano quelli che poi studiavano, che andavano alle medie o che proseguivano negli studi, che magari poi che diventavano avanguardisti e poi passavano a giovani fascisti e poi passavano direttamente, c'era il passaggio diretto dalle organizzazioni giovanili al Partito Nazionale Fascista. Era un inquadramento rigido in cui c'era un minimo di offerta culturale che era data proprio dal giornalino Il Balilla, ma a parte questo c'era l'inquadramento ogni settimana nel sabato fascista, dove in pratica si veniva addestrati a marciare, a fare qualche esercizio sportivo, ma essenzialmente a marciare, a fare esercizi premilitari. Quindi il nome, sputa fuori il tuo nome, canaglia. Levi, Abramo Levi. Un ebreo, l'avrei giurato. Razzista, picchiatore, non tanto intelligente, Dick Fulmine è il personaggio emblematico di questa cultura. In Dick Fulmine, il mito dell'azione si innesta sul modello di italiano nuovo, voluto e potenziato dal regime. Dick Fulmine ragiona in termini di violenza, esercitando la preferenza su neri, gialli, indiani, meticci. Di quando in quando il suo bersaglio è un russo. Possibile che per far tacere la gente debbo sempre distribuire pugni? Questi sono pugni che vengono dall'Italia. Garantiti autentici. Chiedeva un'adesione passiva. In seguito però, con la caduta del fascismo il 25 aprile e la liberazione, le cose cambiano. Nel dopoguerra, quelle che sono le associazioni nate all'interno della sinistra cercano di farsi portatrici di un cambiamento di rotta rispetto a come ci si rivolgeva alla gioventù. Ci sono anche forme associative, quelle legate all'Azione Cattolica, che era stata durante il regime l'unica forma associativa che potesse rivolgersi anche ai giovani, che non fossero le organizzazioni dirette del regime, che nel momento di crisi del regime, quando dopo il 25 luglio del 43, quando Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini, cercano di convincere il governo Badoglio a passare direttamente le organizzazioni giovanili, l'organizzazione del dopolavoro e l'EIAR, cioè la radio, oltre all'Istituto Luce, direttamente nelle mani dell'Azione Cattolica. Quindi una volta che il governo Badoglio ha sciolto il Partito Nazionale Fascista, si cerca di far subentrare direttamente la rete associativa cattolica, che era l'unica altra rete associativa organizzata che fosse rimasta legale nel paese, a subentrare a quella gestione, quindi in pratica ad assorbire un ruolo di educazione totalitaria che era stato del regime, passarlo direttamente alla Chiesa come elemento stabilizzante di una società che altrimenti il governo Badoglio non aveva la capacità di mantenere. Un progetto che non è andato in porto, perché di lì a poco c'è stata l'invasione tedesca e la guerra civile che ne è seguita non ha permesso minimamente di continuare a pensare a progetti di questo genere. Invece nel dopoguerra, da un lato c'è stato il cattolicesimo politico attraverso proprio l'Azione Cattolica, che ha riproposto massicciamente la propria iniziativa, cercando comunque di arrivare a egemonizzare la gioventù, almeno se non l'intera società. E dal canto suo la sinistra politica ha cercato di dotarsi di strutture associative anche di carattere educativo rivolte alla gioventù, per avere un proprio spazio, ma avere un proprio spazio che fosse portatore dei valori della resistenza. Quindi di fronte a un'educazione fascista che aveva previsto per i ragazzi solo un inquadramento passivo di diventare degli esecutori, magari degli esecutori militareschi anche di quelle che erano le direttive del regime, la sinistra cerca di cambiare rotta e si ispira anche a quelle che sono le sollecitazioni che arrivano proprio dagli educatori militari statunitensi, che stanno cercando di rinnovare la scuola italiana, agendo soprattutto sulla scuola elementare, introducendo quello che era l'attivismo pedagogico. Cos'era l'attivismo pedagogico? Qualcosa che portasse all'apprendimento dall'alfabeto al calcolo, a una cultura civica generica, ma dove il ragazzo in qualche modo fuggisse a quell'asservimento all'insegnante che la riforma Gentile aveva introdotto in tutti gli ordini di scuola, quindi anche nella scuola elementare. La sinistra invece cerca di tradurre questo tipo di sollecitazioni sul piano educativo, in un primo tempo agendo in un modo abbastanza disordinato, cercando di promuovere varie associazioni che portassero i ragazzi a giocare. Quindi nascono l'associazione Giovani Esploratori, nascono i Piccoli Garibaldini in Toscana, le forme associative più disparate che localmente, soprattutto dei ragazzi che si sono formati all'interno della resistenza, possono portare, cercando però sempre di proporre delle forme educative che in qualche modo sfuggissero agli schemi organizzativi che erano stati quelli dei Balilla e della gioventù del Littorio. Quindi se le parate, le marce, un'educazione militaresca erano le cose proprie delle organizzazioni fasciste, ora soprattutto si cerca di far imparare i ragazzi a giocare e a organizzarsi, perché anche prima che comincino a esserci delle indicazioni pedagogiche precise, quindi con la fondazione nel 1950 dell'associazione Pionieri, dell'associazione Falchi Rossi e poi del giornalino Il Pioniere, quello che tutti vedono è che c'è una necessità di rivolgere dei modelli educativi validi che coinvolgano soprattutto i ceti popolari. Quindi cambia il destino di questi ragazzi figli del popolo. Prima i ragazzi fuori dalla scuola vivevano proprio per la strada, selvaggiamente. Si dava per scontato che andava già bene se non fosse stato un destino delinquenziale. Quindi il fatto che crescessero fossero come dei piccoli monelli, era dato per scontato, perché era ai ragazzi delle famiglie del ceto medio o dell'alta società che si richiedevano comportamenti diversi, si richiedeva un disciplinamento particolare che li plasmasse fin dall'inizio a diventare una classe dirigente o di ambienti che facessero da intermediari tra la classe dirigente e gli ambienti popolari. Invece queste associazioni della sinistra si pongono fin dall'inizio il problema di cambiare il destino di questi bambini, quindi di rimettere in discussione, e vedendolo come un fatto rivoluzionario che portasse i valori della resistenza, il fatto che quei ragazzi fossero destinati a crescere per la strada e a ricoprire necessariamente i ruoli che erano già stati dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro bisnonni. Quindi questo progetto di cambiare il destino dei ragazzi si pensa debba dotarsi di nuovi strumenti. Nuovi strumenti che allora diventano l'Associazione Pionieri Italiani, fondata da Carlo Pagliarini, e il Pioniere, il Giornalino, con direttori Gianni Rodari e Dina Rinaldi. Sia il Giornalino che l'associazione, e le cose sono strettamente legate, perché il Giornalino non è una cosa che porta solo messaggi, spiega solo così, racconta storie o cose del genere. Il Giornalino è un incitamento a lavorare per l'associazione, cioè a mettersi in gruppo, a auto-organizzare la propria educazione in gruppo, e è un'auto-organizzazione che si basa tutta sulla collaborazione. Si fa dello sport insieme, e lo sport che si fa all'interno dell'API e che viene propagandato dal Giornalino è lo sport non competitivo, dove tutti devono arrivare, dove tutti devono fare delle cose insieme, perché il successo non è quello di chi può prevalere sugli altri, ma deve essere il successo raggiunto dalla squadra, dal gruppo, insieme. Quindi c'è un ripudiare anche certe forme, le storie che troveremo sul Giornalino, quelle di Cipollino, quelle di Chiodino, le storie di Rodari che ancora oggi continuano a essere pubblicate altrove, magari senza dire che sono state pubblicate inizialmente sul Pioniere, ma sono le storie dove ci sono i coetanei, gli amici, tutti insieme che si aiutano da qualsiasi ambiente vengano. O se vogliamo parlare con il linguaggio di Cipollino, le storie di Cipollino sono storie dove tutti i bambini sono una diversa verdura o una diversa frutta, cose del genere, ecco, tutti i generi di frutta e di verdura, quindi è indicare che da qualsiasi ambiente sociale si venga, ci si aiuta, si sta insieme, si collabora insieme per fare delle cose. Ed è un dopo che i frutti guasti se ne furono andati, Cipollino poté ricostruire il regno. Divenne un luogo in cui ogni seme poté sviluppare le sue potenzialità, a prescindere dalla sua estrazione sociale, natura e forma. Cipollino e i suoi amici vissero felici e contenti da quel giorno in poi. E questa è la fine della storia del bambino Cipolla. Un rigettare quello che era l'immagine che noi trovavamo nelle storie di Balillino, personaggio principale dei fumetti del Balilla, che era macista, era sbruffone, spesso prevaricava, anche manesco. Ecco, c'è un ribaltare certe immagini di quelli che sono i modelli di riferimento proprio, e dove il collaborare insieme in modo non competitivo, ma magari con una competizione di gruppi per realizzare gli obiettivi migliori dal punto di vista educativo, dal punto di vista pedagogico, era il modello che veniva proposto. Come e da chi era costituita la redazione del Pioniere? Il gruppo che lavora a lanciare il Giornalino del Pioniere è un gruppo di intellettuali notissimi, non c'è solo Gianni Rodari che è figura di narratore oggi conosciuta, tradotta e pubblicata in tutto il mondo, ma ci sono Dina Rinaldi che è un'altra fine intellettuale, c'è Ada Gobetti che è un'altra esponente, c'è Marchesi, ci sono Guido Petter che è stato poi anche successivamente uno dei maggiori psicologi dell'età evolutiva. Ci sono personaggi di tutto rispetto che non si limitano a proporre giochi o proporre delle attività, perché ai ragazzi si propone non solo di leggere, ma di creare loro stessi le storie, di inventarle, e anche non solo di inventarle, ma di andare aiutarle a raccogliere dalle nonne, quindi incitandole proprio a fare un lavoro di inchiesta, tanto sui racconti, cercando di ricostruire i racconti che fanno loro i partigiani su come è avvenuta la guerra partigiana, ma anche andando a raccogliere favole, andando a esplorare le città, costruendo poi delle relazioni su come avevano visto e trovato dal punto di vista dei ragazzi le città. Quindi c'è tutto un attivismo di lavoro che cerca anche di costruire una lettura, una letteratura parallela. Ci sono questi autori che pubblicano dei romanzi per i ragazzi, e ci sono tutte delle attività che vengono svolte non solo all'interno dell'associazione, nei reparti che l'organizzazione cerca di fondare in tutta Italia, ma si cerca di avere delle riunioni, dei momenti di critica dello stesso giornalino, dove si dica cosa non funziona, cosa funziona del giornalino. C'è un incentivare l'uso delle lettere, e proprio il giornalino diventa un riferimento per come si vuole crescere, ma come si vuole crescere sempre in un ambiente che è per lo più un ambiente di ragazzini che attraverso l'attivismo nel pioniere sono stimolati a diventare qualcos'altro rispetto a quello che sarebbero potuti essere in una società come quella che c'era allora, ma anche come quella che c'era 10, 20, 30, 40 anni prima. Per esempio, ci sono oggi anche dirigenti d'aziende, intellettuali che sono passati attraverso queste esperienze, che erano figli di operai, di contadini, che raccontano come proprio l'attività all'interno del reparto sia stata qualcosa che gli ha indicato il modo di avere una socialità di tipo diverso e quindi diventare qualcosa di diverso da quello che avrebbero potuto essere diversamente. Sí.